tempi. A quei tempi bisognava essere artisti per fare questo lavoro. Oggi è tutto differente ed è tutto con le macchine. Lei pensi che se faceva un vaso, un bidet, tutto a mano? Ma passo passo, pezzo pezzo, quello che è. La produzione che si faceva in una fabbrica ed era pochissima. Se stampava tutto a mano, se faceva tutto a mano. A quei tempi s'era veramente ceramisti. A 14 anni già stavo in fabbrica, come tutti, Civita Castellano, paese mio. Come Oddo, come Peppe, come Zaccaria, come Demetrio, come Tito. Che se tu gli chiedi, te che hai visto la fabbrica? Raccontamela. Ecco, tutti ti diranno, io a 14 anni sono entrato in fabbrica, che non era manco finita la guerra. S'andava a fa l'apprendista, ho fatto retto, andami a fa alla mia baro mestiere. Io sono nato sporco di creta, anche se in fabbrica non c'ero mai voluto andare prima. E che non ed era capitata l'occasione, che non fuor di mica che non mi piacesse di lavorare, Perché io ero raccoglitore di cuoio, raccoglitore di scarpe, di tutto quello che capitava. Io, e te sto a parlare che c'avevo 7 anni, prendevo queste scarpe rotte e le portavo a un forestiero giù do fosso. Caricavamo una barrozza piena per portare queste scarpe. Questo signore, che si chiamava signor Nino, le scarpe le sfettucciava, ci faceva delle fettuccine un po' più grosse, delle pappardelle, diciamo. E poi se le portava via. Per ogni barrozza caricata ci dava 3 monete bucate e una sigaretta. È da lì che ho cominciato a fumare. Dall'età di 7 anni, il giorno che smettessi, vorrebbe dire che non c'ho più fiato manco per chiacchierare. Io nella fabbrica non c'ero mai voluto andare, perché nella fabbrica ci sono nato e dalla fabbrica sono sempre voluto scappare. Come un ragazzetto che vuole scappare via dalla casa, dalla madre, dal padre, dai fratelli. E se tu gli dici perché vuoi scappare? Ma che ne so, per ritornare, per di quanto t'ho voluto bene, che non me ne ero nemmeno accorto, che mi mancava l'odore, che mi mancava o forno piazzato davanti a casa mia, o sole rosso, mi mancava o fume. Ecco perché sono così affezionato a fume. Mi mancava o fume delle fabbriche. Prima della guerra era difficile trovare le scarpe. I padri li passavano i figli più grossi a quelli più piccoli a quelli più ciuchi... Insomma, poi per fortuna che è arrivata la guerra, che per noi ed è stata una fortuna, per noi dico, per noi raccoglitori di cuoio, di scarpe, per noi, perché non è che se potesse dire la medesima stessa cosa per quelli che stavano sopra i carretti, visto che insomma erano morti. Allora noi che facevamo? Sverti, sverti, mici, mici, salivamo lassù, su per sti carretti, e prendevamo le scarpe. E tanto... ed erano diventate troppo larghe. Certe volte sti cristi che stavano sui carretti le facevano bu, te ritrovavi che te muovevano una gamba, dicevano una parola, ma così, per fartevi ancora una paralisi cardiaca. Ma io non c'avevo paura, io lo so che loro ci avevano bisogno di una carezzetta e io gliela facevo. Così poi si riaddormentavano. Dormi, dormi, coscine di pollo, dormi, dormi, coscine di pollo, dormi... Disgraziato, dove sei stato? Dove sono stato? Sono stato a fare scarpe, ma... Capirai, era tutto buttato giù, la scuola era scoperchiata che noi ce andiamo a tirare i sassi, i carginacci, a farci le battaglie. Disgraziato, mi faceva mia madre quando ritornavo merco con l'occhio nero. Ma aspettiamo tuo padre, fammi i conti. Ma quali conti, che non ci avevamo nemmeno gli occhi per piagne, che stavamo come l'aretino Pietro, con una mano davanti e una mano di dietro. Se mangiava pane e olio a pranzo, a cena, a colazione e pure a merenda. Un brodino con dentro vino rosso, oppure la vegetina, un brodino con le fave. E quando potevamo bagnavamo uno spaghetto con la saliva, bucamio i sacchi di zucchero, lo infilamio dentro e facemi a gara a chi ne succhiava di più. E poi c'erano le caciottine, quelle che prendevamo dai pecorari marchigiani. Oh, te se squagliavano in bocca. C'avevano un odore, un sapore che io non l'ho più ritrovate. Io le sentivo come i cani da caccia. Le puntavo e partivo. Ero capace di attraversare tutto quanto paese. Vicoli, strade, usci fuori, in mezzo ai campi, fossi. Corri, corri, cammina, cammina, appressa sto odori. Un giorno mi sono ritrovato in mezzo a un capannone abbandonato, vuoto. Dentro a sto capannone non c'era niente, Però da dietro ho visto come dei passi, un'ombra che si avvicina. Da che sei figlio? Parla! Sai quando te sogni la notte che sono entrati a casa i ladri, che tu li vedi, poi chiamare, urlare, ma da quella bocca non ti esce manco mezza sillaba. Sio nipote di Gigio Lè? No. Allora siete questi di Poca Ciccia? No. De Baccaiò? No. De Strozzetto? No. Allora siete questi di Cagona? No. A te che razza sì? Parla. E così poi, all'improvviso, senza sapere perché e per come, quella bocca, dico la mia, diventa come un fiume in piena, che non si ferma, che non arresti neppure con una truppa intera dei carabinieri. Io sono figlio di Marisa Alberto, mio nonno, che porta il mio stesso nome, era cavaliere di Vittorio Veneto, combattente per il Regio Esercito. Mio nonno c'aveva un mestiere, mio nonno l'aveva imparato da suo padre, che porta il nome di mio padre, che l'aveva insegnato ai suoi 4 figli. Guarda che so io. So tu zio. Tu zio Peppe. lo zio Peppe. Mi dice che era partito per la guerra. E quel giorno, proprio quel giorno, ed era tornato, che non aveva voluto salutare nessuno e si era fiondato dentro a sto capannone, dentro a sta fabbrichetta sua. Mi dice che stava ripartito, ma che non me lo voleva dire dove stava andando. Che brutti scherzi che ti fa la guerra! Non te fa riconoscere nemmeno i cristiani! Perché non te fermi? Perché non saluti tutti? Lo vedo passare in mezzo ai tavoli, tra gli stambi, tra i bangali. Lo vedo prendere un tornietto e comincia a girare. Poi piano straccio e pulisce un pezzo. Aiutami a riportarlo, me fa! Quando che facevi sti pezzi? Te sto a parlare degli anni 20, dei primi anni 20. Finché non entravamo nel forno, non te li pagava a nessuno. Allora, se te piava di petto o direttore o caporeparto, tu non piavi una lira. Passavano 15-20 giorni, un mese, ma tu non vedevi una lira, nemmeno se te mettevi a piangere in greco. Ma noi non la pensavi a quella maniera, anzi, tutta la rovescia. E quando c'era da far sciopero, ed eri mio sempre primi, i primi a diventare disoccupati. Te sto a parlare di dopo lo sciopero del 21. Allora, disoccupati che era mio, che fammio che non fammio, ci siamo ritrovati insieme dentro una fabbrichetta. La fabbrichetta dei disgraziati. Ma che te sto a raccontare con sta capocciaccia? Ci giovinotto, pensa a trovarti una bella ragazzetta, non danna a confonne, non danna a confonne queste cose, queste idee. Anzi, so io che mi confondo, che te vedo tanto cresciuto grosso che mi sembra sto a parlare con tuo padre. Lo vedi questo? Eh? Lo vedi questo? Questa è la parte bassa do pollice. Questa parte bassa do pollice, tra pollice e l'indice, ci si fa un pezzo, capito? Ci si fa la cornice, la ciambella, il rotondo del coso. Dove ti appoggi quando devi fare questo è il rotondo del battente. Dalla parte dove ci si appoggia, ecco, questo punto del dito mio, tu fai così, no? Con questo punto del dito mio, e porti via la terra, hai capito? E porti via la terra. Allora una volta stavo a fare questo lavoro, no? Mi si avvicina un pezzo grosso, un importante, mi guarda nelle palle dell'occhio e mi dice: lei sta facendo una scultura. E noi, dico io sto a fare un cagatore. Con i compagni miei ne parliamo spesso. C'è quello che gli manca la moglie, quello che gli manca la suocera, quello che gli manca di farsi una bella magnata. Io so scapoloni, di farmi una bella magnata mi piace. Ma la cosa che mi manca di più, ci credi? È Uccello Rosso. Uccello Rosso che fa la fabbrichetta nostra. Io lo spiego bene bene a tutti quanti per filo e per segno come è fatto sto cielo, roba che se ci fosse uno che fa i quadri gli verrebbe fuori in capolavoro. Ma che guardi me fallo? Come che guardo? Guardo Uccello tutti i giorni, tutte le sere. Io e Bersaglieri, te lo ricordi a Bersaglieri? O guardiano sciancato della fabbrica? Sei troppo figo, sei troppo ciuco, come fa a ricordartelo? Bersaglieri, io e Bersaglieri tutti i santi giorni stavamo su Ponte Clementino. Guardami sto fumo, sto cielo rosso, e lui sospirava. Rosso di sera, bel tempo si spera. Finché c'è cielo rosso, c'è speranza. E finché c'è speranza, io posso sperare di mettere a paro questa mia cianga. E poi Civita l'hanno bombardata. Obiettivo strategico, hanno detto. Hanno buttato giù mezzo paese. Chi scappa di qua, chi scappa di là. Noi personalmente siamo scappati in uno di questi paesi qua vicino, in mezzo alla campagna, a Vignanello. Guardiamo le battaglie in mezzo ai campi di grano. Ci straiamo e sentiamo rumore dei sortati che passano. Le urla, anza, svanza, tranzi, colpi di mitra. Che a pensarci adesso ci comportavamo proprio da disgraziati, senza coscienza. Andavamo negli orti e ci fregavamo la frutta e le cipolle. I pomidori, oh, sti pomidori ci avevano un'odora, un sapore che io non mi sono più dimenticato. È stata un'estate, l'estate del 44, l'estate di Vignanello. È stata un'estate, ma poi la gente ha cominciato a rientrare. La guerra è finita! Ma sta benedetta guerra? E non voleva finire. E così abbiamo cominciato a dirlo piano piano, come se nulla fosse, quasi in silenzio. La guerra è finita! Hanno cominciato a dirlo sottovoce prima in pochi. La guerra è finita! E poi in tanti, tutti quanti al paese sussurravano. Rossa di sera, bel tempo si spera. Sento una vocetta che più mi avvicina e più cresce. Guardo sopra e vedo uno sbuffetto piccolo come la puzzetta di una creatura che scappa fuori da quella ciminiera, proprio da quella fabbrichetta che stava davanti a casa mia. Rossa di sera, bel tempo si spera. Bersaglia, dico io, Bersaglia, che fai? Andiamo ragazzi, hanno riaperto forno. Il cielo era diventato sempre più rosso. Intorno aveva cominciato a bruciare tutto. A Goletta, a Sbortoni, a Marcantogni, a Vincenti, la San Clemente, la fabbrica del Borghetto. Bruciavano tutti i boschi, tutte le castagne, le nocchie, la faggeta. Bruciava la fabbrichetta davanti a casa mia. O cielo diventava sempre più rosso. A Civita c'erano 7, 8, 10, 12 fabbriche, tutti con sti forni a legna. Ma che ne so quanta legna bruciava dopo la guerra. Tutti i mondi, da Civita a Viterbo, si spogliavano per riaprire le fabbriche, per fare cessi. Ed era tutto sbiancato. E toccava rimboccarsi le maniche per ricostruire. Toccava ricostruire i palazzi, le case, le cose, tutto. E io a 14 anni sono entrato in fabbrica. Pure perché se non andavi in fabbrica, non andavi da nessuna parte. Noi tutti ci avemmo lì dentro chi un parente, chi un amico, chi un conoscente, chi uno zio. Uno che ne so, faceva foggiatore, no? Fatte conto che tu eri un mastro ceramista e io venivo da te. Te facevano mettere vicino a loro. Un operaio, una finestra, un tornietto che girava e un secchio d'acqua. Fammo favore, figlio. Vammo a più all'acqua, dai, sbrigati. Oh. Ma che t'hanno imbarzamato? Che sta a fare lì fermo e muovite? E va più a questo, e va più a quell'altro, e va più a quest'altro. E che sta a fare lì fermo e muovite? E corri di qua, e corri di là. Senti qui c'è manca, e corri di sopra, e corri di sotto. E vamo a fare sto spaccetto su. Insomma, tu o lavoro, in principio, non li imparavi. Perché loro se tenevano un segreto. E mica te li facevano vedere, neppure se veniva giù padre eterno a diglielo. E allora ho preso baracca e burrattini e sono andato da mio padre. Mio padre mi fa mettere vicino a lui, in piedi su una mattonella. Non te muove, mi dice. Guarda e impara. 8 ore al giorno, tutti i giorni, una settimana. Guarda e impara. All'ottavo giorno mi dà un tornietto in mano e io comincio a girare. Pio la spugna, la metto sul pezzo. Appena l'appoggio sul pezzo, fia de Dio, non l'avevo nemmeno toccato. parte una abbia stima che faccio appena in tempo ad abbassarmi, che la vedo rimbarzare in mezzo ai tavoli, ai pezzi, in mezzo agli stampi, tre bancali, sotto ai tavoli, bussa con l'andri operai, chiedi come state, piasse in caffè, fasse una passeggiata, rinonna a discutere dei palloni, spiaccicasse per terra, ritorna a sbattere in fronte che facevi in pena in tempo, a piattela e a mettetela in tasca. Poi dice, uno ci mette 6 mesi per capire come funziona. Però io o pezzo l'ho imparato a fare tutto, dall'inizio alla fine, passo passo, pezzo pezzo, dalla A alla Z. Metti che io una mattina c'avevo 10 pezzi da fare, no? Alla fine della giornata li avevo portati a compimento, perché io pezzo lo metto sullo stampo, lo taglio, lo guarnisco, lo scartavetro, lo soffio, lo collaudo, lo rifinisco. Passo passo, pezzo pezzo, dall'inizio alla fine, dalla A alla Z. E mica stiamo a parlare di mo, da adesso, che c'è quella addetta alla stuccatura, quella andrà addetta alla rifinitura, quella addetta al colaggio, quella addetta al collaudo. All'epoca che te parlo io, tra il 40 e il 42, noi i pezzi li sapevamo fa tutti, dalla A alla Z. Che quasi quasi ci sembravano delle creature. Perché i cessi dell'epoca nostra, dico, erano uno diverso dall'altro. Ogni pezzo un pezzo unico, diciamo ceramica artistica. Che poi all'epoca nostra c'era una fame, c'era la fame dei sanitari. La roba la gente se la portava via come veniva, direttamente dai forni, pure coi difetti. E capirai, se piava la terra da fosso, una terra che era melma, la terra che era una zozzeria, con questa terra si facevano i pezzi, si facevano certe tazze, che ti erano garantite un latte e caffè. E che te potevi piacere, o secondo latte e caffè, ma per carità di Dio non ed era previsto. Lo stesso piatto non ci dovevi mettere in brodo molto caldo, non ed era previsto. Se tu lo rigiravi, leggevi, garantito un solo brodo. Come quel giorno che zia Marisa aveva preparato il brodo di gallina, quello fatto con la cipolla, gli stuzzicadenti, gli iodi di carofino sopra, il giorno che mia madre aveva partorito di mia sorella, ecco, che mia sorella ancora stava lì a piangere tutta rossa dentro la bacinella e mia madre aveva cacciato l'ultimo strillo. Quando mi si rompe o piatto e o brodo con la pettuta quando la stanza, tutta quando la stanza si riempie di staddore forte di cipolla e più la cipolla si spanne e più mia sorella piange. Sucalo, sucalo sto brodo, e fatta zitta sta creatura, ricogli i cocci che ci fa male, stamattina che ricogli i cocci, ma stava lavata cambrati sti piatti, ma te ce morto io. Me fa zio Peppe, che era appena ritornato dalla guerra, che la guerra era finita. Ma te ce porto io in una fabbrichetta vera. Non fa come tuo padre, non te mette sotto padrone. Anzi, ce lo sai che te dico, che la fabbrichetta la famo noi. E io a dire la verità non me lamentavo. Un mestiere ce l'avevo, lo stavo ad imparare. Ma lo zio Peppe mi metteva sta purge nell'orecchio, mi diceva, non t'accontenta che quelli te fregano, dammi retta a me, quelli zitti zitti pensano solo a farsi l'affaracci loro, e che c'hanno più da noi, questa gente, i padroni, noi anzi c'hanno qualcosa di più, ci avemo un mestiere che questi non c'hanno, sono loro che devono venire ad imparare da noi, e che fanno, che fanno senza da noi, sono stufo di guardare su monna riportato, io non ci sto, non ci sto, non ci sto. Aspetta un attimo che c'ho un minuto di silicosi. Non ci sto. Ma Laura ha detto tante volte che mi ha fatto una capoccia gonfia come una zambogna. Ma lo sai che ti dico? Che ci aveva ragione. Padrone mio, te voglio arricchire. Padrone mio, te voglio arricchire, come no cara i vo fatica. primo giorno era d'inverno, ma lo ricordo come se fosse ieri. Faceva talmente freddo che la mattina te preparavi con lo scarpello per rompo ghiaccio. Appena arrivo, quell'andro operai mi cominciano a riempire di roba. Chi mi mette in cappotto? Chi mi appoggia una coperta? Chi uno straccio? Uno sopra l'andro, uno sopra l'andro, uno sopra l'andro. Lo vedi, penso io. Ma guarda quanto mi vogliono bene questi qua. Avranno parlato con mia madre che si sarà ricomandata. Ma povera creatura, sta sempre male, c'ho bronco debole, statici attenti. E io mi sentivo bene. Callo, che mi pare di stare sotto le coperte. Entra dentro, mi fanno. E mi tirano due secchi d'acqua fredda. Dove, dico io? Dentro forno, o forno spento, mi dicono. Un forno spento fa 180 gradi. Entra dentro e pia sti pezzi. E con questi stracci che ci faccio? Entra dentro e pia sti pezzi. Entro e prendo quello che mi capita sotto mano. Esco de corsa, tutto fume. E buona andrà secchiata d'acqua. E via de corsa un'altra volta. Coi guanti arroventati, in mano brancate de piatti, bracciate de piatti, milioni de piatti, miliardi de piatti. Dopo una settimana ed ero fritto, bollito. Che poi, per metterli a paro, sti pezzi che uscivano fuori scombiccherati. Gli davi un po' di manate, li battevi, dovevi sistemarli con la carta vetrata. Zac, zac, zac, suo pezzo, suo battente, zac, zac, zac. Tutto sto pezzo che te se ne imbiva di polvere, te tiravi su un polverone. Allora prendevi cesso in mano, una grossa boccata di fiato e soffiavi come un megafono. Porvorona di Cristo. In mezzo ai capelli, sulle mani, sulle unghie, sulla pelle, che col sudore te si trasforma in una statua di creta. All'inizio dice, vabbè, me faccio una doccia, me la levo. Certo. Come no? All'inizio. L'ossido di silice è una polvere che se tu te la metti tra le mani, te gratta. E ci crede, è una polvere di vetro. È la polvere che mi si è imbastata per 40 anni in mezzo ai capelli, sulle mani, sulle unghie, che mi è entrata negli occhi, che mi sono messa in bocca quando mi mangiavo i panini, quando parlavo, quando mi stavo zitto, quando respiravo e basta. Quella polvere lì mi è entrata nei polmoni. Che poi nei polmoni si ferma, secca, piano piano. Lavorate fino, con i polmoni. Certe volte ci mettete più, è più lenta. Te ne accorgi dopo tanti anni e ti dici, vabbè, sarà l'età. Certe volte si sbriga. Nanno? E te secca. La polvere di silice, uno dice, ci fa l'abitudine, basta non corri, sì, basta non sforzare le articolazioni, sì, basta respirare poco, ecco, il trucco è respirare poco, perché se respiri di più, sto polmone si affatica, si stracca, non ce la fa più a rialzarsi, non ce la fa più a pompare sangue, respiriamo a polmoni aperti, così abbiamo i soldi della pensione. Io ho lavorato all'epoca di quando c'era la polvere, quanta ne volevi. La polvere ti cieca gli occhi e non ti fa vedere niente. Non ti fa vedere nemmeno quelli lì vicini, i compagni tuoi, che stanno lì a piassare a polmoni aperti. Per quattro cazzo dei sordi di pensione. Come quelli che vanno in miniera, dice, e beh che fai, ce vai? Quando che bruciavano le fascine, la fabbrica si riempiva di fume. Ed era tutto nero, tutto nero, tutto nero, tutto nero. Era un disastro. Io c'ho il 90%. Noi siamo partiti il 22 di gennaio del 55. E il 54 fu fatta questa specie di fabbrica, diciamo, questa fabbrica a livello artigianale. E mi ricordo che facemmo uno sciopero per 50 lire perché chiedevamo 50 lire d'aumento. Queste 50 lire non ce l'hanno accettate e allora c'era la sezione del Partito Comunista e del sindacato e andavamo lì durante questi giorni che non si faceva niente, che facevamo sciopero. E per queste famose 50 lire era sta fabbrichetta, insomma, ecco. Ci siamo visti, abbiamo cominciato a fare un po' di riunioni e cacciamo sembra 300 o 350 mila lire a testa e fu fatta questa fabbrichetta. tutto ci servono 20 operai, fra i quali dei visi, 10 visi che colavano, che stampavano a mano quei tempi, 10 di questi, 6 nel forno toscano, 2 nel reparto per preparare le argille, per preparare le terre, insomma, uno di fuori lì che fa il manuale e un altro che sta al magazzino, e stiamo arrivando a 20 persone. Praticamente le fabbriche di Stesoci sono nate perché a quei tempi c'era una lotta sindacale dura, durissima, e allora siccome l'ultimo sciopero, che era uno sciopero proprio duro, non ci volevano dare 50 lire al giorno, e siccome praticamente queste fabbriche poi che c'erano non erano che c'erano grandi capitali per farle, e venuta l'idea a un certo momento, dice riuniamoci e facciamoci la fabbrica per conto nostro, e così sono nate queste fabbriche, sì, la Facis, la Vitrez, la Flaminia, e queste qui sono state prime tre, poi sono seguitate pure le altre praticamente, ma la verità vera è questa, e da lì è nato lo spirito proprio di iniziativa per fare queste fabbriche. Di essere indipendente, insomma, ecco, perché facciamo un po' come ci pare noi, una repubblichetta a modo nostro. Era una lotta come quando si faceva lo sciopero, era una cosa paurosa, non era una cosettina da poco, insomma, ecco, se si faceva sciopero era sentito da tutto il paese, tutta la ceramica, erano sempre agitati perché nervosi, perché c'era la forza, insomma, quello che non c'è più oggi, oggi non si può fare di niente. Quando lo zio Peppe era tornato, dico, era tornato dalla guerra, lo trovai sempre più spesso al circolo. E il circolo era una specie d'osteria, un posto dove si mangiava e si beveva, insomma, un posto d'embriaconi, che però tutti chiamavano circolo dei lavoratori. Ecco, lì dentro c'era una stanzetta dove si giocava a zecchinetta a 3-7. E io vedevo sempre lo zio Peppe che faceva avanti e indietro, insomma, un giorno lo vado da parte e dico, senti, dove vai? A discute, anzi... discutiamo insieme. E di che parlate? Lo senti questo? Eh? Questo è un suono che tu senti quando torni a casa, lontano. Oppure quando esci a mangiarti la pagnottella. Oppure quando porti fuori i bangali. Quando la mattina passi a piedi o con la bicicletta. Sto rumore continuo della sirena a me mi entra dentro all'orecchio. Io me le strapperei. A me mi pigliano un gnocco allo stomaco, un mar de fegato che mi pare che mi danno una cordellata. L'ho sentito tante volte che non la voglio più sentire. So satollo. E nel mentre che l'ascolto, mi viene da pensare la stessa cosa. Penso che dentro a quelle fabbriche col rumore delle sirene io non ci resisto. Mi pia l'itterizia, mi scappano le bolle. Ogni volta che sento sto rumore mi viene spontaneo pensare. Ma se può far crescere un fio così? Via, la mattina de corsa tutti dentro. De corsa tutti a magnà. È finita, ma domani si ricomincia. Sì, si ricomincia a fare i pecoroni. De che parlate? Tu entra, punta e gioca. Se vuoi giocare. E se non vuoi giocare, sta zitta e guarda. Se deve lavorare lo sabato, la domenica, perché se deve lavorare sempre? E perché? Le ferie una settimana, chi me le fa fare le ferie? Ferie non se conosco. Perché te devono pagare solo se esso pezzo sano da forno? Se non gli piaci, non te pagano. I diritti, sì, ciao, i diritti poca roba, noi ma quali diritti ci avevamo noi? Vendi lire su C, su 6, perché è vero, compagno, che vivo poco, ma quelli meno da noi, eh? E che c'hanno più da noi sta gente padrona che mette su 4 mori di macchine e fanno le fabbriche, eh? Che c'hanno più da noi questa gente? Ma me lo spieghi di me, che c'hanno? Noi ci avevo mestieri che questi non c'hanno. Noi siamo che portiamo avanti la baracca, che pezzo lo mettiamo sullo stampo, lo tagliamo, lo guarniamo, lo scartapetriamo, lo soffiamo, lo collaudiamo, passo passo, pezzo pezzo, dall'inizio alla fine, dall'A alla Z, come se fossero delle creature. Noi o pezzo lo portiamo a compimento, con ste mani e con sta capoccia, che ce l'è mio pure noi per ragionare. 30 lire su 4, la capaccia, senti, tocca faccia sentì, tocca urlarlo sopra le sirene, tocca faccia sentì, e se non ci vanno a sentì, ce lo sai che famo noi, non ce lo sai che famo noi, ci fermiamo. E che forti? Guardi che famo sciopero. Punta, punta, punta di più, punta di più, punta di più. Zio, zio, posso venire pure io? Voglio venire pure io, zio. È che in quel tempo le idee incominciavano a ragionare. Che pare che è peccato, dillo. Ma questo era un paese dei comunisti. Rossi, tutti rossi. Mica è come adesso che si è diventati chiari, spiediti. Io però non mi sono mai iscritto partito, perché a me un partito mi fa incazzare. Mica me lo sono sposato, e mica è come tua moglie che quando la senti pare che c'è sempre ragione. E mica è come una religione che tu ti metti in ginocchio a pregarla, sì signore, no. Io non sono fatto così. Saluti e baci a tutti quanti, ma monno io lo guardo con l'occhio mio. Disgraziato, dove sei stato? Mi dice mia madre, sei stato con tuo zio Peppa a fare le riunioni. Non gli dare retta a quell'andro cavallo matto, pensa a fatte l'affaracci tuoi. L'affari sono miei, sono tuoi e sono di tutti quanti se questi ci continuano a trattare così. E poi qui si fa la battaglia sindacale, qui si fa la battaglia sindacale a rompere, hai capito? Ma qui si rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, ma che ci avrai da recriminare? E mangi, e bevi, e lavori, che ci avrai da sciaverà? Uno sciopera per rabbia di fame, perché è stufo di mangiare pane duro come le bestie. Uno sciopera perché gliel'ha detto partito, gli ha detto, è andato a casa e gli ha detto, tu devi scioperare, e quello sciopera. Uno sciopera perché scioperano gli altri, uno sciopera perché gli altri non scioperano, perché gli piace portare la bandiera, fare gli striscioni, cantare. Un altro perché gli piace di lavorare e si incazza quando vede che sto lavoro è fatto male, che sto lavoro non viene rispettato. Uno sciopera perché si è innamorato di Paoletta. E magari si vuole sposare, e magari ci vuole avere figli, E come fa? Come fa se va a giro con la scarpa e la ciabatta? Come fa? Come fa se non gli danno nemmeno 50 lire d'aumento? 50 lire d'aumento! E che avevo cominciato a fare l'amore. Paoletta si chiamava. Era piccola che pareva una bamboletta. Giocami a chiapparella, a nascondina, a mio sembra rubare le pesche e le albicocche. Poi facciamo la gara di corsa. Au, mi batteva sempre. E io mi sarei voluto mettere a piangere. Allora gli urlavo, Miccarola, Miccarola, sei partita prima. Paoletta mi voleva per forza imparare a giocare a campana. Ma io sono maschio, gli facevo. E i maschi a campana non ci giocano. Perché? Perché sì. C'aveva due gambe. C'aveva due gambe come due stennarelli, pieni di tagli, di lividi dappertutto. Io me la ricordo sempre zozza di terra. E la madre, ogni volta che la vedeva, diventava un pizzico. E te via un corpo! Me pare a fiate nessuno! Ci metteva dentro la bacinella a tutte e due e ci tirava delle secchiate d'acqua. Tocca la pappe con la sarza puzza! Guarda come siete ridotti, ecce uomo! È stata un'estate, l'estate del 44. È stata un'estate, la gente ha cominciato a rientrare e Paoletta è rimasta a Vignanello. Sarà passato qualche anno quando organizzano per la festa di San Marciano, santo patrono, la votazione della reginetta. Ecco, ti danno una cartolina e tu voti. E beh, avevano fatto un quadro plastico con tutte queste signorine. Lei figurava il sole, gli avevano messo un vestitino giallo con i sbrillucci fini. Paoletta c'aveva tutti i capelli sciorti, era magra, c'aveva un corpo, un personalino proprio bello, c'aveva due gambe che tutti si giravano a guardarla, ma mica solo le gambe c'aveva fatte bene, c'aveva tutto fatto bene. Appena scesa giù, sono arrivato lì di corsa, mi sono fermato e ci credi, gli avrei voluto dire tante cose, ma non usciva niente, sono solo diventato rosso come un peperone. Allora ho preso la cartolina, quella che mi avevano dato per le votazioni, e io ho lasciato sto bigliettino. Che ci vediamo? Difatti ci siamo rivisti. Io andavo a trovarla col treno della Roma Nord, quello delle 14:37 di sabato pomeriggio. Andavo, scendevo sotto casa, facevo un vischetto e lei scendeva. Arrivava sulle scale e ci fermavamo a parlare. Un giorno scende, prendo e gli do un bacio. quando è ritornata su barcollava, era tutta sturbata. Io a Paoletta me la volevo sposare. E come fai? Come fai? Ma tu ce lo sai quando erano 50 lire all'epoca? Vatta a ricordare. Allora, io nel 53 andavo al mercato e con 50 lire invece compravo un etto di parmigiano. Stavano a 50-60 lire, ecco. 50 lire me ne dava mio padre o sabato sera, io ero contento. Perché andavo lì do bar e potevo comprare un caffè per me e per un altro. 3 o 4 fette di mortadella. Ecco, quando valevano 50 lire. Ecco, quella volta facemmo uno sciopero per 50 lire 20 giorni di seguito, senza manca rifiatà. Che poi, beh, poi i primi giorni ti diverti pure, vai a pesca, se stagione vai a funghi, oppure vai lì do bar, a giocare a tresetta, a zecchinetta. Ecco quando valevano 50 lire, una puntata di zecchinetta. Stavano tutti al circolo, capito? Tutti là, c'era l'entusiasmo, è fatta, come fanno senza di noi? Dai, che stanno per cedere, che stanno per cedere, ma di che? Ma quelli, ma come se niente fosse, ma non arredano ma nemmeno dei nanticchi e sti benedetti soldi non ce li vogliono dare e noi ci prosciugamo come le piantine. Se contano le ore, i minuti, ma i padroni non cedono e noi stiamo lì immobili, zitti. Sempre più zitti, ci guardiamo in faccia, non sapemo quello che dovevamo dire. Tutti. Pure Peppe Leppa. Peppe Leppa era capace di parlare ore, ed era un fiume in piena, un maremoto. Non se la smette neppure lui se gli metti un asciugamano in bocca. Davvero, pure quando dorme continua a parlare. Insomma, per farlo smettere a Peppe Leppa bisogna sparargli. Ma mo erano 20 giorni e 20 notti che Peppe Leppa al circolo, in assemblea, al bagno, per strada, da solo, in compagnia, non parlava. Non rifiatava. 20 giorni e 20 notti. Al 21esimo giorno, con un pacchetto di lupini in mano appena comprati, Peppe Leppa si mette in mezzo alla stanza. Se blocca e rimane con la bocca a culo di gallina. E allora tutti si azzittano e lo guardano. 20 secondi. 30 secondi. Un minuto. Allora si alza su Gigi e dice: questo gli ha preso un colpo, gli dà una ciabattata da dietro e da quel gargarozzo gli esce sta frase: ma perché non fammo una fabbrichetta per conto nostro? Una fabbrichetta per conto nostro? La frase rimbalza per tutto il circolo, per tutti i vicoli, bussa le porte, suona i campanelli, cammina sotto forma come un cane che abbaia di notte, de pallone che rompe i vetri, de bambino figlio, creatura che piagne, de vento che apre e chiude le porte, una fabbrichetta per conto nostro. C'ha ragione, dice Miro, siamo tanti, siamo una brancata, contiamoci Fausto, contiamo quanti ne servono. 1, 2, 3 fornaciari, 4 magazzinieri, 5 stampatori, 6 turnisti, 4 generici, 20 persone ci servono. 20 persone. E così abbiamo deciso di fare la fabbrichetta per conto nostro. Pensa un po' quello che era. Niente. È nata in un'osteria, battezzata dentro una stanzetta, perché lo statuto l'abbiamo fatto lì dentro. Uno statuto imbadaccato di olio e sporco di vino. Mario si era appena laureato, no? Mario, dice più o meno uno statuto, più o meno quello che si può fare, che noi siamo tutti digiuni. Mario! Noi ci manca tutto, non sapevamo come giostrare, tu lo sai meglio di noi, noi altri capiamo del lavoro e basta. E qui ci fa Mario, tocca a metto presidente, vicepresidente, dirigenti, qui tocca a mettere le cariche, noi altri ci guardiamo e non capiamo. E che famo con i padroni? Arrestiamo da capo a 12. Noi altri volemo fare tutti gli operai, ma guarda un po' che cosa strana. Tutti quanti vogliono fare gli operai, nessuno vuole comandare, come quando uno gioca a nascondino. Allora famo la conta, a chi tocca non si ingrugna, bim bum bale giù, sotto ponte di Verona c'è una vecchia scureggiona che scureggia il 23, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. E insomma, oh presidente, l'abbiamo fatto un po' quello, un po' quell'altro, un po' quest'altro, io che ero più piccolo mi ci hanno messo a me. Ma quanto c'è da cacciare? 350.000 lire a testa! Ci sono quelli che per trovare soldi fanno il giro dei parenti, degli amici, dei conoscenti. Li mettono insieme così, tutta Civita partecipa, come può, con quello che c'ha. Meriterai, se sentiti in giro per le strade, dentro bar, meriterai. Lo zio Preppe mi prende da parte, mi dà un'incartata fatta con le foglie, con le pagine dei giornali. me lo porta come se fosse un'urna cineraria. Ci avrà messo dentro le ova, penso. Apro e ci trovo i sordi. Ma tanti, prendi, mi fa, prendi. Io sono scapolone, che ci devo fare? Tu ce ne vai avanti, non te puoi fermare. Ma io mi devo sposare. Capirai? Paoletta già sta con Matte con la sarta, a pia le misure. Io me la immagino questo vestito lungo, bianco, pieno dei pupazzetti. Io lo so che ci tiene tanto a fa bella figura. E c'è stata a pensare tutta una vita a quella giornata, che puta caso se viene a sapere qualcosa, se viene a sapere che io voglio mettermi in mezzo alla fabbrichetta, che non ci potevamo più sposare, che dovevamo aspettare, mi tirò un corpo che mi fa rimanere stecchito come un palo della luce. Ma io domenica pomeriggio più coraggio a quattro mani e ci parlo, eh? Che dici? Che dici, Paolè? Lo rimandiamo matrimonio? Me ci butto lì in mezzo? Non lo so. Ma quando ci sarà da aspettare? E quando ci sarà da aspettare? È un anno e mezzo. Ma poi questi soldi li dovremmo ripiare, eh? Che dici? Che dici, Paolè? Eh? Come? Hai detto che mi aspetti? Ma aspetta. E così. Dentro alle fabbrichette ci sono entrato pure io. Quattro mura vuote in mezzo alla campagna. I primi tempi ci andavamo in bicicletta, chi ce l'ha e chi ce l'ha ci va a piedi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata andare al ferramento e prendere 20 chiavi. 20 chiavi, ho detto, eh? Ogni operaio la chiave sua. 20 operai, 20 chiavi. Perché così uno può andare a lavorare alle 7, alle 6, alle 9, all'una di mattina. Può andare a lavorare quando gli pare. Tanto che te importa? C'è la chiave, apri il cancello, entri. Apri il portone, entri. Nessun cartellino, nessuna sirena, solo una chiave. Basta che tu quando esci da casa te la metti in saccoccia e tu puoi andare a uscire quando ti pare e piace. Questo è un bene prezioso. 20 chiavi. 20 chiavi e 6 cessi al giorno. I famosi 6 pezzi. Chi è che non conosce i 6 pezzi? Ci siamo messi d'accordo tutti quanti insieme. Ogni operaio dentro alla nostra fabbrica deve avere una chiave e deve fare 6 pezzi al giorno. I famosi 6 pezzi. Una giornata di lavoro. Certo, devi essere capace, eh? Bravo a farli, perché se tu ti sei organizzato pure contro 4 ore ce la puoi fare. E così, alle 9 finisci, vai al bar e te pigli un bel caffè. I primi 6 pezzi. I primi 6 pezzi che sono usciti dal bancale della fabbrichetta nostra me li ricordo come se fosse ieri. Appena sono usciti fuori erano linti, pinti, puliti, perfetti. Ci siamo messi a ballazzo un po' intorno. Poi abbiamo sentito come un mugolio, sarà una bestiola, un animale. Ci siamo girati e abbiamo visto lo zio Peppe. Lo zio Peppe che piagneva come un ragazzino. Appena avevamo visto lo zio Peppe piagne, ci è venuto da piagne pure a noi. Ci credi, non sapevamo se piagne, se ride. Ma non ci sono usciti i pezzi così belli come il primo bancale che è uscito dalla fabbrichetta nostra. Quella volta ci siamo messi pure a ballare. Accanto all'altro famo le stesse cose, un pezzo faccio io, un pezzo fa l'operaio che non è socio, perché ci stanno i soci operai e gli operai non soci. Ma un pezzo faccio io, un pezzo fa lui che sta accanto a me. Ci prendiamo per culo tutto il giorno, capirai, la fabbrichetta è piccola, non ci sono macchinari, rumori, ci sentiamo solo noi che stiamo sempre a distronzate. Lavoriamo uno accanto all'altro, un pezzo faccio io, un pezzo fa lui che sta accanto a me. E io che sono socio e tutti e due che siamo operai. La forma del cesso è sempre la stessa, la paga è sempre la stessa, le feste sono sempre le stesse. La mattina del 1° maggio se finisce prima di lavorare, che la baracca è tua e la devi mandare avanti perché sei socio. Ci svegliamo presto, verso le 3, le 4, caricamo sverti sverti, verso le 9, 9:30 finimo. Ci mettiamo il fazzoletto rosso al collo e andiamo tutti alla manifestazione. Perché sei socio, ma sei anche operaio. Demetrio Testa Lepre, Dagoberto Carabelli, Gioacchino Carabelli, Giancarlo del Priore, Zaccaria Finesi, Romoletto Cerrocchi, Tito Valletta, Peppe Leppa, Eugenio Saviotti. Io la mattina non mi sveglio mai troppo presto. Nasce qua da un latte callo callo e un caffè. Guardo fuori dalla finestra e vedo che è una bella giornata. E mica è come sti giorni addietro che ha tirato giù un'acqua come i noci. E poi è venuto su un venticello, una tramontana che ha asciugato tutto. Guardo fuori dalla finestra e penso: oggi vado a Pia l'Asparaci. Me voglio fa un piatto d'asparaci, buoni buoni. Quelli piccoli, mica i selloroni grossi, quelli che si trovano adesso, che non sanno né di me né di te. Stamattina voglio andare a cogliere l'asparaci. E con sto pensiero fisso in testa esco da casa. Attraverso tutto il paese, arrivo in campagna. L'asparaci crescono proprio lì dietro Mondarozzo, all'ombra della fabbrica che era la fabbrichetta nostra. Adesso è diventato un capannone lungo lungo che a guardarla a me mi fa pure un po' d'impressione. Mi fio che fa l'amministratore delegato. Me lo dice sempre: papà, vieni a trovare. Ma non me va. Ci credi, non. Non me va. Proprio non lo so perché hanno voluto buttare via tutto. Andiamo a fare 2 giornate. Andiamo a fare 3 giornate. Quante volte l'ho sentita di sta frase. I primi tempi ci avevamo messo un po' a capilla che dovevamo fare. Ci siamo riuniti tutti quanti insieme e ci hanno detto: tocca aumentare, se no arrivederci e grazie. La nostra baracchetta ce la potevamo pure scordare. Intorno c'erano la Facis, la Vitrex, la Castellagna che sfornavano anche 300 pezzi al giorno. Sicché è stato su Gigi e ha detto: se non dovemo fare più 6 pezzi, allora significa che ne dovemmo fare 12, no? E quindi significa che dovevo fare 2 giornate. Ma guardate che cosa strana. 2 giornate dentro una stessa giornata. Che poi i pezzi sono continuati ad aumentare. Da 6 sono diventati 12, 12, 18, 18. Abbiamo smesso di contare. Quando che ti hanno dato facoltà di fare come ti pare, c'era quello che guadagnava di più e quello che guadagnava di meno con le stesse ore. Allora abbiamo cominciato tutti a correre, sempre di più, sempre di più. Sembra di più. E fa presto a diventare padroni. Voglio dire di mentalità. Questo è il mondo che produce. A dire la verità, io ci ho sempre pensato. Ma quante volte uno vede le cose dal punto di vista sbagliato? C'aveva più dell'innamorato che del razionale. Certo, ed era una soddisfazione essersi liberato dai padroni, liberato dall'incubo, dalla disoccupati. È come quando uno si sposa, la prima cosa che fa è comprarsi una casa, in modo che nessuno ti dica più mi occorre, se ne vada. Per noi uno dei beni fondamentali ed era la sicurezza del posto di lavoro. E che era di più sicuro se questo posto ed era tuo, di noi. Da tutti, far crescere i figli, far crescere i figli e averci uno stipendio. A dire la verità, altre cose non ce l'ho in testa e basta. Che ci vuole tempo suo, o tempo suo per fare gli spessori, perché ci vanno da 10, 12, da 14 mm al massimo. Eh? Allora come fai? Come fai a riconoscerlo? Vila Barbottina, la famosissima Barbottina. È la creta, quella mischiata con altri materiali. Tu pista Barbottina e la metti nella cazzarola. La famosissima cazzarola. Non conosci manca la cazzarola? Ed è famosissima. Tu pista cazzarola e la metti poi, cioè metti sopra la Barbottina. Quanto si è formato uno strato di 10, 12, 14 mm significa che il pezzo è pronto per essere portato nell'essiccatoio. Se no il pezzo si cuccia, si smoscia, si spaccia, diciamo così. No, ecco. Allora tu pisso pezzo lo porti nell'essiccatoio e poi ce lo tieni per un po' di tempo. Dopo lo porti dentro forno. Lido forno ce lo tieni per 24-48 ore. Una volta. Poi ce lo riporti un'altra volta. Per altre 24 ore. Oh. Allora diciamo che o pezzo è quasi finito. Te devi ricordare di guardare se ci stanno i puntini neri, i ciafregni, i cosetti, prima di portarlo dentro o magazzino. A quei tempi bisognava essere artisti per fare questo lavoro. Adesso si è della gente che sta lì.